Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Recentemente a un convegno organizzato dal COBAT, il consorzio che si occupa della raccolta e del riciclo delle batterie e degli accumulatori esausti, ho incontrato Pavan Sukhdev, economista indiano di fama mondiale. Sukhdev è stato consigliere speciale e capo della Green Economy Initiative presso le Nazioni Unite e ha coordinato il progetto sempre delle Nazioni Unite sull'economia degli ecosistemi e della biodiversità. È tra i fondatori di GIST, una società di consulenza ambientale che aiuta i governi e le imprese a gestire il loro impatto sul capitale naturale ed umano. Sukhdev ha da poco pubblicato un libro, Corporation 2020, trasformare le imprese per il mondo di domani, con cui propone un nuovo modo di fare impresa. Un modello scalabile, buono per le grandi quanto le piccole e medie aziende, di cui abbiamo cercato di raccogliere per voi i punti essenziali. Sentiamo. Il modello attuale, basato sulle grandi multinazionali, consiste nel realizzare profitto privato a spese della collettività. Le perdite generate coinvolgono le persone, sono posti di lavoro persi, sono perdite di relazioni sociali e coinvolgono l'ambiente. Pensiamo alle foreste, agli ecosistemi e così via. Ma il punto è che il lavoro, l'ambiente e le relazioni sociali sono beni pubblici e non possiamo continuare a distruggerli in nome del profitto privato. C'è un dato tra tutti che sembra particolarmente significativo, che fa riferimento alle 3.000 aziende più grandi al mondo. Ce lo ricorda? Il dato che citavo è il seguente. Le prime 3.000 aziende del mondo hanno esternalità, ovvero generano costi sociali per 2.150 miliardi di dollari, equivalenti al 3,5% del PIL mondiale. Ecco, ma quanta ricchezza producono? Producono sostanzialmente la stessa quantità di ricchezza. Quindi se i profitti sono uguali ai costi. Perché lo state facendo? Qual è la logica? E allora quale potrebbe essere la soluzione? Lei ha intanto individuato quattro temi chiave. Primo, quando ci sono esternalità, come abbiamo detto, bisogna misurarle e gestirle. È necessario pianificare come ridurle. E ciò deve diventare parte integrante del lavoro di un amministratore delegato. Anche incrementare le esternalità positive deve essere parte del lavoro di un AD. Secondo punto, i ministri delle finanze, quando tassano, finiscono sempre per mettere tasse sul lavoro, sui salari, sull'innovazione. Cioè, tassano le cose buone. Perché non tassare quelle negative, come lo sfruttamento delle risorse o l'utilizzo di fonti fossili che finiscono in atmosfera? Insomma, bisogna tassare quello che non va e promuovere ciò che ha effetti positivi. Il terzo tema riguarda la finanza. Oggi una grande azienda può prendere a prestito soldi dal mercato finanziario attraverso una moltitudine di canali, ma realizzare un business con i soldi di qualcun altro è sempre pericoloso. Chi controlla questo rischio? Nessuno lo controlla. Ecco perché banche centrali e attività economiche sane devono riuscire a lavorare insieme su questo tema. Quarto, la pubblicità oggi fa leva sulle insicurezze dell'uomo, tramutandole in sicurezze, con il meccanismo che trasforma il desiderio in bisogno e il bisogno in domanda. Ed è quello che alimenta il modello compra, usa e butta. Ogni volta che compri un nuovo telefonino o una nuova automobile, nell'arco di 6 mesi devi comprare il modello nuovo. Se hai il 6, devi avere il 7. Se hai il 7, devi avere l'8. Così è come lavorano le strategie di marketing e di pubblicità. Sfortunatamente questa è la strada sbagliata. Non stiamo apprezzando l'utilizzo delle risorse e il costo di utilizzo di queste risorse. Se invece facessimo pagare questo consumo di risorse, probabilmente, anziché buttare via un telefonino o una macchina ancora in grado di svolgere molte funzioni, lo restituisci al produttore, che ci metterà il lavoro necessario per riparare o migliorare il prodotto, per poi darlo a qualcun altro o restituirlo al proprietario. Così facendo si innesca una sharing economy in cui il produttore detiene gli asset di quello che produce e gli utilizzatori, lei ed io, utilizzano questo bene fuori dalla logica del tu produci, io utilizzo e butto, che è quanto accade oggi. Sukhdev, abbiamo di fronte un'altra sfida, quella dell'intelligenza artificiale e dell'automazione. Ci sono studi che dicono che milioni di posti di lavoro saranno spazzati via dall'automazione nei prossimi anni. Questo in realtà sembra avere poco a che fare con l'ambiente, ma le chiedo se l'economia verde non contenga in qualche misura anche una risposta a questo problema. Sì, quando ti avvii verso un'economia circolare, i punti lungo la catena del valore nei quali si genera ricchezza sono molto più numerosi e per ognuno di essi servono il cervello o le mani di una persona. Insomma, è un'economia a più alta densità di lavoro, anziché un'economia basata su pasti gratuiti consumati a spese del capitale collettivo. Al posto di utilizzare molte risorse e immetterle in un ciclo produci, compra e getta, si utilizzano poche risorse e si estrae da esse il massimo, creando ricchezza e posti di lavoro per tutti. Ecco cos'è l'economia circolare. Bene, torniamo in studio solo per salutarci. Appuntamento a settimana prossima. Vi lascio Effetto Notte. Buona serata.